non ceneresti mai con un bigossino. Non faresti mai gli scontri a volto scoperto. Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook. Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia. Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia. E eccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di dell'Uro dei Balcani, terza puntata, a dirla tutta. Benvenuti a tutti in ascolto, in podcast. È una bellissima giornata oggi, sono molto contento di essere qui ai microfoni di Radio Wombat. Di cosa parleremo oggi all'Uro dei Balcani? Parleremo della Bosnia, parleremo della situazione migranti che ora si riapre con l'arrivo della bella stagione, non che sia... si sia mai fermato anche durante l'inverno, insomma abbiamo seguito anche con varie altre trasmissioni l'andare avanti della migrazione anche nei momenti invernali attraverso le montagne. Ora riparte però il periodo bello e insomma ci sono allerte in Bosnia e un aiuto chiaramente dalla Bulgaria, ma insomma ne parleremo più tardi. Sempre in Bosnia abbiamo il primo Gay Pride, il primo Pride nella storia della Bosnia. Successivamente parleremo della Romania e di uno scandalo sanitario ambientale che la minaccia e che riguarda anche l'Italia in questa vicenda. L'Italia entra anche nell'ultima vicenda, invece parliamo riguardo alla Serbia, riguardo alla costruzione di armi, all'implementazione di nella costruzione appunto di armamenti. Chiaramente l'Italia con la beretta fa parte di questa parte di boom economico che la Serbia vuole fare attraverso gli armamenti. Non solo, ma c'è anche una componente di politicizzazione dell'esercito serbo che preoccupa molto. Detto questo, andiamo con il primo pezzo della giornata, ossia i Vallanzasca, e abbiamo Cime. Marzo trova un posto. Cime, foglie profumate già ad aprile, fiori che rilassano un badile, là c'è una ragazza e mi sorride, bionda che mi chiede di alle cime, cime tempo. tempestose per un cuore che conosco, cime marajane da scalare ad ogni costo, cime di foreste che resistono al disbosco, cime sul balcone che fioriscono ad agosto. Due ore sono a San Vittore. Cime tempestose per un cuore che conosco, cime marajane da scalare ad ogni costo, cime di foreste che resistono al disbosco, cime sul balcone che fioriscono ad agosto. Cime tempestose per un cuore che conosco, cime marajane da scalare ad ogni costo, cime di foreste che resistono al disbosco, cime sul balcone per quest'anno sono a posto. Andate a vedere i concerti di Vallanzasi. E rieccoci qua. Allora, come dicevamo in apertura, parliamo di cime, no? Non è vero? Cioè, in parte sì, le cime montuose che i migranti devono oltrepassare per arrivare poi nei nostri paesi. Comunque, parliamo della Bosnia. 2260 sono i migranti entrati in Bosnia e Erzegovina tra gennaio e febbraio. Ma i flussi stanno aumentando rapidamente, appunto, come dicevo, con la fine dell'inverno. E le autorità del paese vogliono rafforzare la polizia di frontiera. E chiaramente chi c'è solidale con questa idea? L'Ungheria di Orban, che offre 60 uomini e propone il filo spinato. Chiaramente, una soluzione che riescono a trovare. Partiamo da un assunto. In Bosnia ogni poliziotto deve garantire la sorveglianza di diversi chilometri di frontiera e in queste condizioni chiaramente è impossibile impedire l'ingresso di migranti illegali nel paese. Secondo alcune stime, con il ritorno della primavera sono circa 25.000 i migranti che dalla Grecia potrebbero dirigersi verso il nord. Il comando operativo bosniaco per le questioni legate ai migranti stima che la chiusura dei 600 km di confine è indispensabile. Bene. Tuttavia, questo presupporrebbe dei pattugliamenti 24 ore su 24 nelle zone difficili. Una missione che la polizia di frontiera della Bosnia si tiene impossibile al momento. E si dice, solo per portare a termine i compiti principali, senza contare le circostanze eccezionali, e la situazione estremamente complessa che conosciamo dal 2017, alla polizia di frontiera mancano circa 450 uomini. Per coprire tutti i luoghi identificati come potenziali punti di passaggio ad est della Bosnia e Erzegovina ci vorrebbero almeno il doppio o il triplo del personale. Questo lo spiega Sanela Dulikovic, che è il portavoce della polizia di frontiera della Bosnia e Erzegovina, aggiungendo che il problema potrà essere risolto solo con l'aiuto dei poliziotti delle due entità del paese, ma anche con quelle di Frontex, del progetto europeo. Rinforzi dall'Ungheria però arrivano, quindi richiesta l'aiuto per respingere gli emigranti, Orban risponde subito. A partire dal 1 aprile i poliziotti dell'entità della Repubblica Sprska dovrebbero essere aggregati, così come 60 guardie di frontiera ungheresi. Un aiuto proprio proposto da Budapest, sotto riserva dell'accettazione chiaramente da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri della Bosnia. Il comando operativo si è dichiarato favorevole a questa ultima opzione, precisando che questi rinforzi non avrebbero alcuna autorità operativa, chiaramente, bensì consisterebbero consentirebbero alle forze dell'ordine bosniache di approfittare delle esperienze dei consigli dei colleghi ungheresi, che come ben sappiamo sono molto esperti, visto il muro eretto e i costanti pattugliamenti e soprattutto poi anche la politica d'odio che Orban sta portando avanti. Ma abbiamo parlato nelle puntate passate delle proteste che ci sono in atto e del consenso che sta perdendo Orban. Meno male. Il comando operativo sta verificando già da qualche tempo la possibilità di chiudere le frontiere con la Serbia ed il Montenegro, come ha affermato il ministro della sicurezza della Bosnia, Dragan Metkic, che dice: come chiudere al meglio queste frontiere affinché i migranti non entrino? Come assicurare un processo di gestione controllata di questa migrazione? Queste sono le domande a cui trovare una risposta, dice. La frontiera orientale della Bosnia è un problema, dal momento che i cittadini iraniani possono arrivare in Serbia in aereo senza bisogno del visto e passare illegalmente in Bosnia e Erzegovina. Questi ultimi costituiscono all'incirca il 15% dei migranti che transitano attraverso il paese verso l'Unione Europea. Altro problema che denuncia Dragan Metkic è dato dal fatto che i paesi vicini cercano di sbarazzarsi dei migranti presenti sul loro territorio senza rispettare gli accordi internazionali. La comunicazione con i nostri vicini è pessima, ci dice appunto. Tutti nascondono i propri dati, rifiutano di fornire delle cifre esatte per scaricare i problemi. Gli accordi di riammissione sono ad un punto morto. Nessuno ha formalmente sospeso gli accordi bilaterali, ma nei fatti questi non funzionano. Pertanto potete rimandare indietro qualcuno solo se l'avete fermato proprio sulla frontiera. Se lo fermate 10 o 15 metri più in là, dovete fornire delle prove e dei rapporti ufficiali. È un sistema disfunzionale, si dice. Un altro problema, la Bosnia non ha firmato alcun accordo con i paesi da cui proviene la maggior parte dei migranti, come l'Algeria o il Marocco, spiega Jasmine Hajic, professore presso la facoltà di criminologia di Sarajevo. La rotta dei Balcani occidentali, che passa dal Montenegro e dall'Erzegovina, si è riaperta. Arrivano 100 persone al giorno. Ci ritroveremo in una situazione ancora peggiore rispetto all'anno scorso, dato che il numero dei migranti presenti in Grecia è molto più consistente. Avverte. Secondo le informazioni del comando operativo della polizia di frontiera, 2260, come vi dicevo in apertura, sono i migranti entrati in Bosnia nei mesi di gennaio e di febbraio, e 3500 si troverebbero attualmente nel paese. Abbiamo parlato in passato però della controparte della popolazione bosniaca che invece ha accolto i migranti. Abbiamo parlato di Sarajevo stessa, dei migranti accampati sul fiume e dei cittadini che hanno portato cibo e tende. Ma non solo, abbiamo parlato di alcuni distretti particolarmente caldi ai confini, in particolar modo con la Croazia, se non erro. Dove insomma ci sono visioni contrastanti: da una parte cittadini che aiutano i migranti dandogli quantomeno un posto dove dormire e del cibo, perché sono completamente abbandonati a se stessi, proprio quello che dice appunto Dragan Metric, appunto, che ogni paese scarica il barile su quegli altri, e quindi poi sono i cittadini che poi si occupano come sempre di queste cose, visto che i governi se ne fregano o erigono muri. Quindi la situazione è questa: in Bosnia ci sono 3500 attualmente e aumenteranno. Come viene affrontata la questione? C'è una nuova proposta. Presto del filo spinato. Per il momento nessuno considera ufficialmente di porre barriere fisiche alla frontiera, anche se il ministro Metkic ha dichiarato che la costruzione di un muro sul modello ungherese è un'opzione percorribile. Al contempo, alcuni media della Repubblica Sprasca, come il quotidiano Glas Spreske, affermano che l'Ungheria sarebbe pronta ad offrire i materiali del filo spinato. Chiaramente, non avevo dubbi. Per ora l'obiettivo è quello di inviare al confine il maggior numero di poliziotti possibile per assicurare dei pattugliamenti 24 ore su 24. Ma vista la configurazione del territorio e il deficit di uomini a disposizione, respingere i migranti al confine è la sola soluzione possibile, dice Jasmine Hajic. Sfortunatamente penso che la situazione diventerà sempre più complicata. Le forze di polizia, i servizi che si occupano degli stranieri, i ministeri degli interni delle due entità, della Bosnia e Erzegovina, stiamo chiaramente parlando, sono già sommersi di lavoro e si trovano di fronte a un numero crescente di migranti. È un carico enorme. Ed io non sono troppo ottimista quanto all'aumento del numero di poliziotti. Infatti i membri delle forze dell'ordine devono ricevere una formazione adeguata ed è impossibile reclutare nuovi agenti in così poco tempo. Per gli esperti la sola soluzione sarebbe quella di chiedere aiuto a Frontex e di farlo il più in fretta possibile. Secondo le stime del comando operativo, la Bosnia-Erzegovina è in grado di gestire adeguatamente 4.000 migranti al massimo. Attualmente in Grecia ve ne sono 25.000 pronti a partire, quindi le preoccupazioni sono di non riuscire a gestire questo flusso migratorio. D'accordissimo, è chiaro che non è facile gestire un così alto flusso di persone che scappano da miseria, guerre e quant'altro, ma chiaramente la soluzione non è costruire muri, lo sappiamo, perché questi sono flussi migratori storici, sono diaspore storiche, sono quello che portano avanti la storia da sempre, e creare muri non risolve niente, cioè neanche la muraglia cinese ha risolto l'invasione dei mongoli, quelli erano guerrieri e orde, qui invece abbiamo povera gente che ha bisogno solo di un aiuto. Ci sarebbero tante soluzioni possibili e invece si crea muri, si criminalizza le ONG e si vede e vediamo appunto questo clima d'odio che sale in tutta Europa e non solo. Seguiremo questa vicenda, vediamo un po' come andrà avanti, speriamo che questi filo spinati, questi muri non vengano creati, ma la vediamo bicia. Comunque, queste sono le ultime dalla Bosnia legate all'immigrazione. A questo punto direi un po' di musichetta per allegrarci, un pezzaccio. Andiamo con direi Apre la classe con Kalinifica. Eccoci qua. Allora, abbiamo sentito aprire la class Calmitta. E allora, eccoci qua. Non abbiamo finito di parlare della Bosnia per oggi, perché abbiamo anche una notizia, diciamo, piacevole. Infatti a Sarajevo ospiterà il primo Pride nella storia della Bosnia e Erzegovina. In Bosnia e Erzegovina il Pride avverrà spontaneamente come espressione di insoddisfazione di un gruppo sociale e una forma di lotta. Le persone scendono in strada quando sentono la necessità di denunciare i problemi con cui sono costrette a confrontarsi. Così spiega Emina Bosniak, che è la direttrice della Sarajevenski Otvoreni Center, organizzazione non governativa impegnata nella promozione e nella difesa dei gruppi vulnerabili, tra cui donne, minoranze sessuali e di genere, in un'intervista che è stata riportata, se volete, sulle pagine del Deutsche Welle. C'è anche un link, se volete ve lo metto, anzi ve lo metterò in scaletta. A qualche mese di distanza, lo scorso lunedì è stata annunciata alla stampa bosniaca che il prossimo 8 settembre 2019, chiaramente, Sarajevo ospiterà il primo Pride nella storia del paese. L'intenzione dei 15 attivisti che andranno a costruire il comitato organizzativo della marcia è certamente quella di riunire la comunità LGBTQ di tutta la Bosnia e Erzegovina, con l'obiettivo di dare visibilità ad un gruppo sociale invisibile, nonché oggetto di discriminazione e violenza. Non solo lì, ma anche in altre parti dei Balcani, dopo un accenno lo facciamo. La Bosnia e Erzegovina ha fatto parecchi passi avanti nell'abolizione. Dall'abolizione nel 1998 della legislazione che criminalizzava l'omosessualità. Tra questi vanno citati l'adozione della legge sull'uguaglianza di genere del 2003, che nell'articolo 2 vieta esplicitamente la discriminazione sulla base del genere e dell'orientamento sessuale, così come l'emendamento che è stato nel 2016, che ha incluso tra i motivi discriminatori l'identità di genere. Eppure ancora molto deve essere fatto, e non solo sul piano normativo. Come indicato nella annual review di ELGA Europe, sono ancora molti i casi di violenza e discriminazione nei confronti dei membri della comunità LGBTQ bosniaca, e il persistere di queste situazioni è dovuto ad un'immagine stereotipata dei suoi membri, che dura a morire. La marcia del Pride del prossimo 8 settembre si affianca all'attività di sensibilizzazione portata avanti da varie organizzazioni per i diritti umani in Bosnia e Erzegovina. Si tratta di un'occasione per dare visibilità ad un gruppo sociale a cui viene spesso impedito l'accesso allo spazio pubblico. Tuttavia, come riferisce Leila Lejla Huremovic, attivista e membro del comitato organizzativo della Bosnia e Erzegovina Pride March, il Pride non sarà solo la marcia della comunità LGBT, ma di tutti quei gruppi lasciati ai margini della società. Quindi questa è una buona notizia, la seguiremo. Spero di riuscire a trovare per voi, per noi, per tutti, per il Wombat, un inviato proprio da quella marcia. Ci sarà a settembre, quindi speriamo a settembre l'8, quindi vi ricordo, l'8 settembre a Sarajevo. Cercheremo di seguire proprio questa marcia e vedremo un po' come andrà, perché ci interessa molto, quindi è una buona notizia. È una buona notizia perché in realtà il clima all'interno dei Balcani non uguale da tutte le parti, però insomma in riferimento alla comunità LGBTQ è abbastanza teso. In particolar modo mi collego all'Ucraina per due principali motivi. Il primo, appunto, è questo, è l'avanzamento, come sappiamo, dell'estrema destra, che ha aiutato le proteste, anzi il colpo di stato, quella sorta di colpo di stato che ci fu anni fa, da cui poi è nato tutto il conflitto, c'è, cioè, nel Donbass, tutta la questione della Crimea, la Russia nel mezzo, ne riparleremo a breve. Ma ci sono, insomma, questi movimenti di estrema destra che tra l'altro abbiamo appoggiato noi europei, vi ricordo, quando ci sono state le proteste contro, appunto, l'imperialismo russo. Però l'altra faccia della medaglia è aiutare invece il nazionalismo fascista ucraino, evviva. Però insomma queste formazioni di destra stanno creando dei problemi, in particolar modo alla comunità LGBTQ, con diverse azioni di odio e violenza. Non ne parliamo oggi di questa cosa. Non parliamo oggi neanche però delle elezioni che ci sono state, però mi preme parlarne proprio un po' per il collegamento che abbiamo avuto, appunto, abbiamo visto Gay Pride, che è importante proprio per questo clima fascista. Le presidenziali, appunto, che si sono svolte ora, l'esito è ancora parziale in Ucraina. Si sono tenute domenica le presidenziali, che danno Volodymyr Zelensky, che è un ex comic candidato anti-establishment sul presidente uscente, quindi in vantaggio sul presidente uscente Petro Poroshenko. Zelensky, quando erano stati scrutinati il 50% dei voti, si aggiudicava un rilevante 30% a fronte del 16% di Poroshenko. Terza più distante l'ex primo ministro Yulia Tymoshenko con il 13%. L'affluenza al voto è stata però del 64%, una discreta affluenza. Dato che nessun candidato raggiungerà con tutta probabilità il 50% dei voti, sarà necessario per l'elezione del nuovo presidente dell'Ucraina un secondo turno previsto per il prossimo 21 aprile. Ecco perché non parliamo ora dell'Ucraina, ne parleremo il 21 aprile vedendo che cosa succederà. Mi premeva però accennarlo non solo per il collegamento con il Gay Pride, ma anche per il collegamento con noi, perché chi sta vincendo? Sta vincendo questo comico. È interessante, diciamo, ora ancora non ho affrontato bene, non ho studiato e approfondito la figura di Zelensky, però è interessante perché all'interno di un suo show comico, Zelensky ha impersonato il personaggio di una serie televisiva, appunto all'interno di una serie televisiva che è molto popolare in Ucraina, impersonava un insegnante che diventa quasi senza volere il presidente della Repubblica. Adesso il comico rischia di ricoprire il ruolo di presidente anche nella realtà, con tutte le incognite del caso, a partire da pro o anti Putin, euroscettico o euroconvinto, non si capisce. Tutte le risposte che tutti attendono da ricevere da colui che risulta favorito a ricoprire la carica del prossimo leader ucraino. Però c'è questa similitudine con l'Italia, appunto, un movimento anti-establishment guidato da un comico ci ricorda qualcosa. Ora approfondirò e ne parleremo nella prossima puntata, probabilmente, o anzi meglio ancora quando ci saranno il 21 aprile, ci saranno in definitiva scioglimento di chi sarà, appunto, di chi avrà vinto, e approfondiremo anche la figura di Zelensky, e anche, appunto, tutto il clima d'odio e l'estrema destra, da che parte sta, come siamo messi, insomma, questione interessante. Ne riparleremo, appunto, quindi probabilmente nella prossima puntata, perché sarà non giovedì prossimo ma quella dopo, quindi ci avvicineremo, forse saremo, ora dovrei controllare il calendario, ma insomma ci avvicineremo a quella data, quindi ne parleremo prossimamente. Quindi buone notizie da Sarajevo, dubbi invece dall'Ucraina, continueremo a seguire, ma comunque quella è una vicenda particolarmente complessa, e comunque i conflitti nel Donbass continuano, non se ne parla mai, ma continuano. Quindi insomma è questa zona di frontiera fra Balcani un po' europeizzati e invece Russia, che insomma non dobbiamo scordarci di seguire. A questo punto direi di andare avanti con un bel pezzaccio, con Caparezza, con il pezzo Nell'acqua, perché mi sembra giusto parlare di come inizia la vita, ma ce lo dice, come è nata la vita, ce lo dice Caparezza, Nell'acqua. Hi, hey, hey. Ogni astrofisico pensa che la vita sia nata con l'esplosione di un'immensa infinita granata. Per i credenti nada, la Terra fu creata da un essere supremo in meno di qualche giornata. Ebbene sì, lasciò che seguano gli c'è chi si dilegua come fin con Genesis. I testamenti dispensano nemesi, ma in fondo sono popolari più Davis in Tennessee. Credi, credi a quelli là o credi a questi qua? Dimmi qual è la verità, chi la merita? La vita non è là, la vita non è qua, né là né qua, ma nell'acqua. Né là né qua, ma nell'acqua, né là né qua, ma né Eccoci qua, abbiamo sentito Caparezza nell'acqua, cosa, pezzo che affronta sia una questione teologico scientifica ma anche temi ambientali, direi, visto che ci dice che il dio Azzecco ci punisce se sprechiamo l'acqua. Anche il Wombat vi punisce se sprecate l'acqua. Come sapete, i temi ambientali sono a noi molto cari, al Wombat in generale. Abbiamo fatto la diretta proprio questo fine settimana, sì, era questo fine settimana, dalla manifestazione contro l'aeroporto e sì per il Parco della Piana. Lo seguiamo da tempo e continueremo a seguire queste vicende e non solo. Quindi la questione ambientale ci interessa molto, e quindi vi parlo oggi invece, parliamo della Romania, come vi ho detto in apertura. C'è un immenso scandalo sanitario ed ambientale che minaccia la Romania. I cementifici del paese bruciano rifiuti spesso importati dall'estero, tra cui vi sarebbero sostanze illegali, il tutto a spese dei cittadini che si trovano a vivere nel mezzo di fiumi tossici. Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, ha fatto un'inchiesta che appunto mi sono letto e vi espongo un po'. Fin dall'inizio degli anni 90 la Romania ha adottato misure che proibiscono l'importazione di rifiuti destinati ad essere poi depositati nelle discariche pubbliche. Tuttavia, la legge ancora autorizza le aziende ad importare rifiuti nell'ambito di programmi energetici. Così tutti i cementifici rumeni usano rifiuti come combustibile accanto al carbone. Una palata di sudicio, una palata di carbone. Chi difende questo nuovo mercato dichiara che questi scambi hanno un impatto positivo sull'ambiente, che vi sarebbero meno emissioni di gas ad effetto serra di quanto si ricorre ai combustibili fossili, e che tutto questo fornisce uno sbocco per i rifiuti che la nostra società dei consumi ha difficoltà a smaltire. Verissimo, abbiamo difficoltà a smaltire, ma parliamone. I cementifici così ne approfittano. Invece di pagare per acquistare del carbone, vengono pagati per bruciare i rifiuti. Eppure questa dinamica non è affatto l'operazione a somma zero che alcuni affermano di essere. Infatti andiamo un pochino più nel nocciolo della questione. Il porto di Costanza è il principale punto di accesso dei rifiuti stranieri utilizzati dai cementifici romeni. La Romania è diventata un luogo allettante per l'immondizia di tutta Europa, spiega Tiberiu Nicia, un procuratore. Più di 1 milione di tonnellate, ossia un quinto dei rifiuti urbani prodotti nel paese, sono bruciati ogni anno nelle fabbriche di cemento, ma nessuno le controlla. Nessuna autorità governativa è incaricata di verificare che tipo di rifiuti vengono bruciati nelle fabbriche. Quindi facile prendere qualsiasi tipo di rifiuto, perché non ci sono controlli. Tiberiu Nicia indaga sul traffico di rifiuti in Romania da parecchi anni. È diventato un problema enorme e nessuno vi presta attenzione. Eppure sarebbe così semplice stabilire una normativa al riguardo. Alcuni uomini d'affari colgono l'opportunità per ripulire il proprio paese riempiendo la Romania di rifiuti. Quando arriva alla frontiera i camion sono belli, i rifiuti imballati in modo appropriato, come se ci inviassero del materiale scolastico. Questo lo dice sempre il procuratore Tiberiu Nicia. In realtà in mezzo ai rifiuti ordinari vengono nascoste sostanze tossiche. Le autorità competenti per l'ambiente incontrano grandi difficoltà nella gestione del problema. Alla frontiera romena, Razvan Huber, che è l'ispettore ambientale della Guardia Nazionale Ambientale, riporta la storia di un carico italiano. Infatti parliamo tanto dell'Italia in questa questione. Nel 2016 assomigliavano, ci racconta una vicenda che lui ha vissuto nel controllo di questi rifiuti che arrivano attraverso i camion, assomigliavano a rifiuti ordinari, ma quando abbiamo aperto i pacchi abbiamo visto che contenevano rifiuti sanitari provenienti probabilmente da diversi ospedali. Questa spedizione era la prima di un contratto che prevedeva l'importazione, sentita, di 12.000 tonnellate di rifiuti da bruciare nei cementifici europei, tutto ciò dall'Italia. Chi si nascondeva dietro queste spedizioni? I rifiuti provenivano dall'Italia. Ma i documenti ottenuti dall'OCCRP mostrano che sono stati i cittadini rumeni a negoziare l'affare per conto di un cementificio locale. Quindi non è stato lo Stato a dare e a comprare tutti questi rifiuti, ma è una questione di un cementificio privato che è andato a comprarsi i rifiuti di ogni tipo in Italia. Tiberiu Ganesanu è uno dei, che non è sardo, no, ma è, forse non si pronuncia così, infatti, è uno di questi intermediari romeni. A suo avviso il carico conteneva solo una percentuale molto bassa di rifiuti sanitari. Esiste una procedura, ci dice, da seguire quando si prelevano dei campioni. Si aprono solo due pacchi, si giustifica, ritenendo che gli ispettori hanno esagerato la quantità e la tossicità di quei rifiuti clandestini. Assicura che i suoi partner italiani sono puliti. Andate a vedere in Italia, lì è così pulito che non vi è alcun odore, nemmeno all'interno della fabbrica per il trattamento. Sì, certo. sponda italiana, vediamo dalla sponda italiana. Siamo andati a vedere in Italia, appunto dice questa inchiesta. Più precisamente a Peccioli in Toscana. Si parla appunto della nostra regione, attenzione. Tutti si sono trasferiti, tutti quelli che hanno un po' di cervello se ne sono andati. Mario è un abitante del paese. Questa zona che stiamo attraversando è costituita da campi dove sono stati scaricati rifiuti industriali. E qui attenzione, cosa è successo? Il trucco consisteva praticamente nello sbarazzarsi dei fanghi tossici dandogli agli agricoltori come concime, e questi ultimi spargevano questi fanghi sul loro terreno e li sotterravano, e il terreno quindi ad oggi è contaminato. L'uomo sospettato di essere dietro questo espediente è Domenico Del Carlo. È lui che si trova dietro la spedizione di rifiuti sanitari confiscati in Romania nel 2016. Sospettato di essere legato alla criminalità organizzata, è stato indagato nel 2017 per presunti legami con la camorra. Molti uomini d'affari che si occupano dei rifiuti sono legati a persone coinvolte in gruppi criminali tipo la camorra, ci spiega questo Adriano Delia, comandante della Guardia Finanza in Toscana. Non sono solo i rifiuti sanitari ad essere proibiti. La legge romena proibisce che nei cementifici vengano usati come combustibili tanto i rifiuti radioattivi quanto altri rifiuti patogeni. Per gli pneumatici, le bottiglie di plastica e gli oli esausti, le norme sono leggermente più complesse. Questi rifiuti possono essere bruciati se le emissioni sono mantenute sotto un certo livello. Evviva! Il combustibile non fossile più usato nei cementifici romeni resta l'immondizia urbana, quindi anche detta spazzatura. Questi rifiuti possono essere bruciati se sono differenziati e puliti. Nella maggior parte dei paesi europei, affinché i cementifici si occupino di questa operazione, bisogna pagarli parecchie centinaia di euro per tonnellata di immondizia. In Romania è molto più economico, da 10 a 15 euro per tonnellata. E questo è il motivo per cui il paese è una destinazione privilegiata. L'inchiesta, appunto, ci porta sulle tracce di un altro italiano, attenzione, Sergio Gozza. Secondo i carabinieri, tra le 150.000 tonnellate di rifiuti spediti da Sergio Gozza dall'Italia alla Germania tra il 2007 e il 2010, alcuni rifiuti erano contaminati dall'arsenico. Sergio Gozza aveva usato, dice, un laboratorio italiano per falsificare i test sui livelli di arsenico affinché il tasso non superasse il limite legale. Ciò nonostante, ha continuato ad esportare rifiuti per l'Europa fino a oggi. Secondo la procura romena, Sergio Gozza ha provato a inviare 2.000 cargo pieni di rifiuti dall'Italia ai cementifici romeni nel 2013. È anche riuscito a far assumere uno dei suoi soci presso un ministero romano. Il piano è saltato in aria quando la polizia romena, grazie a una denuncia, ha intercettato il primo carico di questi 2.000 container cargo. Erano pieni di rifiuti urbani italiani che non erano stati differenziati, erano stati mescolati con altri tipi di rifiuti non elencati nell'inventario relativo alla spedizione. Se qualcuno non spiffera, riescono ad arrivare, scaricare e ripartire, spiega il procuratore Tiberio Nita. Le 2.000 spedizioni di rifiuto di Sergio Gozza erano destinate a un cementificio appartenente ad Olcim Romania, filiale del consorzio svizzero Lafar Olkim. Questa fabbrica può bruciare fino a 300.000 tonnellate di rifiuti l'anno. In Romania arrivano anche rifiuti provenienti dalla Germania, chiaramente non solo dall'Italia. La Cina è stata a lungo la destinazione privilegiata dei rifiuti tedeschi di minor valore, ma dopo l'adozione di una nuova legislazione cinese che bandisce 24 tipi di rifiuti, la Germania si è rivolta alla Romania e alla Bulgaria per trovare uno sbocco per le sue eccedenze. Alcuni camion intercettati alla frontiera dagli ispettori romeni contenevano rifiuti non regolamentari. A Kishadaga, nella contea di Hunedoara, che si trova in Transilvania, Marius Mangu vive a 200 metri dal cementificio Heidelberg Cement, uno dei 7 cementifici della Romania. Heidelberg Cement, più di 15 miliardi di euro di fatturato all'anno, è il secondo produttore mondiale di cemento dopo la Lafarge Olkim, 22 miliardi di euro di fatturato, quello collegato, appunto, vi dicevo, al cementificio, a un'azienda svizzera. Il cementificio brucia all'incirca 200.000 tonnellate di rifiuti l'anno. I camion di Domenico Del Carlo e di camion tedeschi fermati dagli ispettori romeni erano destinati proprio a questo cementificio qua. Cosa succede, appunto? Cioè, si va avanti dal 2006, si sta ora riuscendo a capire 2016-2017, ma questi sono, come sappiamo, i danni all'ambiente sono permanenti tendenzialmente. Appunto, questa inchiesta è andata sul territorio. e dice Marius Magnu: sentite questo odore? Effettivamente è atroce, le correnti d'aria arrivano fin qui, in certi periodi dell'anno questo odore è soffocante, letteralmente. Quando fanno più di 30 gradi non si riesce a respirare. Secondo Marius gli uccelli e le api muoiono e l'acqua che dà ai suoi animali è contaminata. Allo stesso modo diversi alberi del suo frutteto sono morti. Ci racconta, i ciliegi e i peschi sono gli alberi più sensibili, muoiono per primi. Ha mostrato anche l'acqua piovana. Quest'acqua è stata raccolta ieri sera. Prima la davo da bere agli animali. Visto a cosa assomiglia oggi non oserei più. Ho paura che li faccia ammalare. Bruciano gli pneumatici delle automobili e dei rifiuti e noi ci ammaliamo. Le tegole del suo tetto, che sono nuove, datano 8 mesi appunto, sono già mezze annerite. Bruciano qualsiasi cosa, siamo la fossa biologica della Romania, racconta. Disperato il povero Marius. Per mostrarci la scarsa considerazione di Albert Semen per l'ambientazione e la legislazione romena, Marius all'interno appunto ci racconta questa inchiesta dei giornalisti dell'OCCRP, ci accompagna nel bosco vicino al cementificio. Vi sono depositate decine di migliaia di pneumatici e tanta è la gomma che è in attesa di essere bruciata. Dopo la segnalazione appunto di questa inchiesta, Leidelberg Cement è stato condannato a pagare una multa di 10.000 euro per questo deposito illegale che rischiava di causare un incendio. 10.000 euro, ragazzi, che stiamo ragionando? Marius non è il solo ad essere preoccupato. A Cisciadaga si può sentire l'odore dei rifiuti, l'odore di cose di putrefazione, soprattutto in estate, riporta il sindaco Mihai Hirmie, che è particolarmente preoccupato per via di alcuni picchi di emissione. Il direttore mi ha assicurato che tutto si svolge nei limiti legali e le emissioni erano sicure in quanto monitorate dal Ministero dell'Ambiente. Ma ben via. Lui dice, ma sarà vero? Noi diciamo, ma ben via. Insomma, controlli mancati e conseguenti tumori. Gorgheta Barabas è la direttrice dell'Agenzia Ambientale Regionale della Contea. Racconta una versione diversa della storia. Non abbiamo la possibilità di controllare queste emissioni perché non esiste nessun obbligo legale che vincola lo Stato ad effettuare dei controlli, quindi il punto è proprio anche legislativo. Continua. Non ci sono norme per la diossina, per le diossine e furani, e i nostri laboratori non sono attrezzati per controllarli. Le diossine sono una sostanza altamente tossica, come sappiamo tutti, prodotta dalla combustione di materiale da materie plastiche. Preoccupato e disilluso, Lionel Circo, che è uno pneumologo a Simeria, ha constatato un aumento dei casi di cancro nella regione. Numerosi studi dimostrano l'influenza delle diossine sui casi di cancro. Le diossine si diffondono attraverso l'aria, come sappiamo, l'acqua e le piante. Arrivano nell'organismo con il cibo contaminato. Uno studio sulle conseguenze delle emissioni sugli abitanti che vivono intorno ai cementifici richiederebbe degli specialisti interessati a un sostegno finanziario. E le conclusioni di certo non fornirebbero alcun vantaggio alle persone di potere. Pertanto, chiudono gli occhi. Nel 2004 alla Romania sono stati assegnati dei fondi europei per acquistare gli strumenti di controllo delle emissioni, specialmente quelle dei cementifici. Secondo Gheorgheta Barabas, le autorità romene hanno comprato le attrezzature, ma queste non sono mai state installate. Dunque, le autorità romene non monitorano le emissioni di cementifici. La legge, del resto, prevede che i cementifici si debbano autocontrollare, grandi. È un compito che 3 dei 7 cementifici in subappalto ad un'unica impresa tenono gli strumenti. L'impresa, appunto, Tenno Instrument, appartiene a Miha Faka. Questo vecchio deputato del Partito Socialista Democratico, il PSD, è stato direttore dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, capito? Cioè lui ha il controllo e il compito, appunto, di controllare questi 7 cementifici e fa parte del partito, faceva parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente fino al 2013, ha coordinato l'agenzia fino al 2015. All'epoca aveva già creato la sua impresa di controllo delle emissioni, non ne faceva parte, ma suo figlio ne era azionario. Sappiamo che era l'impresa di Mihai Faka a ottenere i contratti, ma che cosa potevano farci? Domanda Gheorghe Barabas. A suo avviso è Mihai Fakas che ha impedito l'installazione degli strumenti di controllo acquistati con i fondi europei. Cioè, questa persona ha degli interessi in questi cementifici e era la stessa persona addetta al controllo. Quindi ha ricevuto tutti i finanziamenti europei, ha comprato tutti i macchinari e poi li ha messi in un angolo e se n'è fregato senza utilizzarli. I conflitti di interessi di Mihai Faka non si fermano qui, attenzione. Vi ritroviamo infatti Sergio Gozza, il trafficante internazionale di rifiuti di cui parlavamo prima. Quando i suoi 2000 carichi illegali sono stati approvati, in nome di Mihai Faka figurava sui documenti di autorizzazione. Corruzione ordinaria su piccola scala o crimine organizzato trasfrontaliero? Si domanda appunto questa grande inchiesta. Ciò che è certo è che tutti, dai rappresentanti locali all'industria del cemento, traggono beneficio dal sistema attuale. Salvo le persone, gli animali, le piante e i terreni. Loro vengono avvelenati e basta. Mamma mia, storia. Vedremo un po' come andrà avanti. Direi ora di dare un pezzo, mandare un pezzaccio. Un gruppo che a me stuzzica molto, sono i 21 Pilots. Un gruppo che non riesco a, a capire a, un po' che musica facciano, però ci sono dei pezzi veramente interessanti. Vi propongo uno di essi, che è appunto Ride, 21 Pilots, Ride. Questi erano i 21 Pilots Ride, con l'inizio gli uccellini che cantavano, no? Proprio per ricordarci questi meravigliosi rifiuti che noi esportiamo in Romania e che inquinano lì, ma non solo, anche la nostra Toscana, come abbiamo scoperto poco fa. Ultimo argomento della giornata adesso, e torniamo a parlare ancora una volta di Serbia. Boh, la smetto di parlare di Serbia, sempre a parlare di questo paese, però purtroppo è al centro di svariate questioni, non solo le tensioni col Kosovo, non solo le frontiere, non, insomma, le questioni Dodds, mille cose, ahimè. Comunque, parliamo di un'altra cosa abbastanza bruttina che coinvolge nuovamente aziende italiane. Negli ultimi anni, infatti, l'industria della difesa serba è entrata in una fase di grande dinamismo. Seppur limitata dalla sua arretratezza tecnologica, sta attraversando un vero e proprio periodo di boom economico. Allora, partiamo, facciamo una breve introduzione. C'era una volta la Jugoslavia, va bene? La Jugoslavia, che era uno dei più importanti esportatori di armamenti al mondo durante la guerra fredda, grazie ad un sistema di produzione integrato di cui faceva parte tutta la Repubblica Jugoslava. C'era una produzione appunto con fabbriche in tutti i vari paesi dell'ex Jugoslavia, ognuno produceva un pezzo tendenzialmente, si creavano le armi da esportare in tutto il mondo, addirittura appunto erano i maggiori esportatori al mondo. Belgrado creò una propria rete commerciale di armi, soprattutto con quelli che venivano chiamati paesi del terzo mondo. Grazie a questi commerci la Jugoslavia poteva reinvestire nella propria industria della difesa, riuscendo ad essere al passo con le evoluzioni tecnologiche del periodo e conseguentemente competitiva anche nei confronti dei grandi esportatori di armi. Però dalla fine delle guerre degli anni 90 il sistema integrato di produzione che vedeva la collaborazione di tutte le ormai ex repubbliche jugoslave è venuto chiaramente meno. Solo negli ultimi anni, anche grazie a politiche attive da parte del governo, la Serbia ha veramente ripreso a vendere armi. Però insomma, la questione è cambiata, perché non ci sono più tante di quelle fabbriche che producevano parti di componenti di armamenti, e soprattutto avevano anche i progetti per creare queste armi in cui le aziende serbe erano integrate. Dal 2003 infatti in poi, con la perdita fra le altre delle acciaierie e fabbriche di armi pesanti, le armi pesanti di Bosnia e Erzegovina e Croazia, alla Serbia sono rimaste infatti solo industrie, principalmente industrie in grado di produrre armi leggere e munizioni, non abbastanza per poter essere competitivi sul mercato globale, chiaramente. La maggiore problematica con cui la Serbia si doveva e si deve confrontare è l'arretratezza del suo reparto di ricerca e sviluppo, ruolo di capitale importanza nello scenario militare attuale dato il livello tecnologico dei sistemi d'arma. Nel contesto contemporaneo è sempre più difficile ottenere nuove tecnologie, avendo queste raggiunto livelli di sofisticazione tali da renderne virtualmente impossibile la replica in mancanza di know-how del produttore originario, cioè ci sia qualcuno che ti insegna o ha i progetti. Visto lo stato delle cose, il governo serbo ha deciso di sostenere l'industria con politiche attive. Per riuscire a colmare il divario tecnologico nel 2017 è stato previsto uno stanziamento di quasi 50 milioni di euro. Avete sentito bene? 50 milioni di euro destinati appunto alla ricerca e sviluppo di nuovi sistemi d'arma. Perché è quello che gli manca? Perché con la dissoluzione della Jugoslavia molte aziende appunto sono state un po'. Molte fabbriche sono state proprio svuotate, soprattutto dei progetti. E quindi manca appunto tutti i progetti per la produzione di armi. Ah, che peccato. Però questo è, quindi la Serbia cerca di correre ai ripari. Nel 2018 invece si è cercato di far passare una legge che avrebbe previsto la privatizzazione delle aziende esistenti, largamente sotto il controllo statale, per attrarre investitori stranieri. Osteggiata dai lavoratori, la proposta di legge è stata emendata e infine approvata. Più che una vera e propria privatizzazione, prevede ora semplicemente un'apertura a eventuali ricapitalizzazioni. Lo Stato dovrà comunque essere il detentore di almeno il 51% delle aziende del settore. Ad oggi comunque l'unica azienda che ha dimostrato, qui arriviamo al punto interessante, un vero interesse nell'investire in Serbia, chi è stato o chi sarà mai? La Veretta, chiaramente. A questo interesse però non è seguito un impegno concreto ancora. Non va trascurato infatti come la mancanza di trasparenza e lo stretto controllo che il governo esercita su questo ramo industriale, anche con reti opache e clientelari, tendono a scoraggiare gli investitori stranieri, poiché i loro interessi potrebbero non essere pienamente salvaguardati. Infatti ho letto un interessante articolo che racconta da una parte la preoccupante politicizzazione dell'esercito che sta andando avanti in Serbia, con il presidente che va a fare comizi nelle caserme a trovare appunto i vari reparti dell'esercito, sempre con i generali dietro, cioè i generali devono stare sempre dietro alle sue spalle per dare appunto un senso di di controllo, e dice che sta funzionando e che sta politicizzando molto l'esercito, e questo, come sappiamo, è un problema non da poco. Inoltre la creazione di armi in Serbia tendenzialmente è molto opaca, in mano anche a questioni fraudolente, dice, si continua a creare mezzi leggeri anche obsoleti al di là delle richieste dell'esercito, ma per come fa comodo agli amici del presidente, e poi l'esercito è costretto a prendere, a comprare almeno una parte di questi, di queste armi obsolete costruite. Comunque, l'industria e il suo export, per quanto restino grossi, ci restino grossi problemi di fondo, il governo è riuscito nel suo intento principale, cioè vendere. Negli ultimi anni i ricavi della produzione di armamenti sono infatti aumentati sensibilmente. Il fatturato delle industrie della difesa è passato dai 131 milioni di euro del 2013 agli oltre 600 milioni stimati per il 2018, più che quadruplicato, quindi in 5 anni, soli 5 anni. Ma a chi vengono vendute le armi serbe? Di certo la rete di contratti intessuti durante la guerra fredda ha aiutato, quindi parlavamo dei paesi del terzo mondo a cui venivano vendute principalmente le armi, e è ancora in piedi, diciamo, questa rete. Analizzati con una prospettiva regionale, i dati della South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons, che è un ente che si occupa del monitoraggio del commercio di armamenti nell'Europa sud-orientale, mostrano come la crescita delle esportazioni sia stata sostenuta principalmente da paesi medio-orientali e africani, per quanto non manchino gli acquirenti occidentali, chiaramente. Andando a scorporare questi dati sui singoli paesi, si vede come tra i principali acquirenti di armi serbe vi siano paesi coinvolti in conflitti molto caldi, in cui sono state testimoniate varie gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Si può notare, ad esempio, come negli ultimi anni l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti abbiano scalato la classifica dei principali paesi importatori. I destinatari di questi traffici sono passati inosservati alla stampa. Sembrerebbe, infatti, quali sono questi paesi principalmente? Siria e Yemen. Le milizie irregolari, anche affiliate a gruppi di estremisti islamici, sostenuti da sauditi e dagli Emirati Arabi, si sono rifornite delle armi serbe. La scorsa estate in Camerun è stato ripreso un video in cui donne e bambini vengono giustiziati per mezzo di fucili della Zastava Army. Questo video, analizzato e reso pubblico dalla BBC, ha portato Amnesty International a chiedere alla Serbia di interrompere la sua vendita di armi a Camerun. Commerci di armamenti tra i paesi balcanici e gli stati arabi coinvolti nei conflitti di Siria e Yemen sono stati quindi portati alla luce anche da un'inchiesta giornalistica collaborativa nel 2016. Il governo serbo ha sempre respinto al mittente con forza le accuse di destabilizzare zone di conflitto già molto delicate, vendendo armi a paesi che le dirottano a gruppi irregolari, appunto Emirati Arabi, che poi le rigirano alle milizie dello Yemen, come sappiamo, i bombardamenti che ci sono tutti i giorni, i media non ne parlano, ma è un conflitto che va avanti veramente da troppo tempo e che miete solo e soltanto vittime civili. Quando nel 2016 i giornalisti chiesero spiegazioni dell'aumento improvviso delle vendite di armi, Aleksandar Vučić, che era il primo ministro, spiegò come l'export bellico costituisca, già allora, l'export bellico costituisca un bene per l'economia serba, quindi lui si giustifica così, aggiungendo inoltre che avrebbe voluto aumentarne sempre di più il volume, ma che anche se avessero triplicato la produzione non sarebbero comunque riusciti a soddisfare tutti gli ordini ricevuti. Mannaggia, tutti i criminali del mondo ti chiedono le armi, non riesci a soddisfarli. È un vero peccato. Non sarebbero comunque riusciti a soddisfarli, appunto, dice. Vučić si è poi lasciato andare ad una provocazione, sostenendo di non comprendere le ragioni delle polemiche in atto e non essendoci alcun embargo nei confronti dell'Arabia Saudita, la Serbia vende armi sottostando a tutte le leggi internazionali del caso, come gli Stati Uniti, e sì, sappiamo che anche gli Stati Uniti marciano su questo, e che con quei soldi vengono finanziati investimenti infrastrutturali nel paese. Quindi vendere armi per uccisione di civili, però comunque ci costruisci le strade, ci costruisci gli acquedotti, tutto sommato, dai ragazzi, può andare bene. Questo è quello che dice Vučić. La crescita economica è infatti la motivazione principale dietro al commercio bellico. Dal 2014 in poi i numeri delle esportazioni hanno iniziato a valere più dell'1% del PIL, che non è poco, ragazzi, non è per niente poco, generando un indotto che dà occupazione a più di 14.000 persone. Questo dato, come ricorda l'Albert Grad Center for Security Policy, in un documento che ha stilato e che investiga queste dinamiche, ha un'importanza capitale. Secondo il BCSP, appunto il Data Center for Security Policy, infatti il governo serbo non avrebbe alcun interesse a proteggere un principio come la pace nel mondo, se per farlo dovesse mettere a rischio la sua ben più concreta pace sociale, perdendo ampie fette del PIL e lasciando disoccupate migliaia di persone. Quindi c'è questo problema economico e tocca, se no non, la pace nel mondo va in secondo piano. Per quanto riguarda invece il quadro giuridico, la situazione è piuttosto complessa. Tecnicamente la Serbia ha ratificato il trattato sul commercio delle armi dell'ONU ed ha una sua legislazione nazionale in grado di minimizzare il rischio che le armi esportate siano utilizzate contro la popolazione civile o passate di mano dal compratore originario ad attori terzi. Ad esempio, nel 2014 e nel 2015, a causa della situazione in Darfur, sono state negate le licenze al Sudan. Sempre secondo la BCSP, comunque, le prescrizioni di legge sarebbero puntualmente disattese, preferendo interesse economico, e l'unico strumento giuridico in grado di prevenire la vendita di armi sarebbe l'imposizione di un embargo da parte delle Nazioni Unite, capito? Agli Emirati Arabi, come sappiamo. Grandi investitori anche qui in Europa, e quindi no, non facciamo l'embargo. Nonostante siano acclarate tutte le violazioni dei diritti umani, la situazione della donna, appunto questi crimini che vengono portati avanti in Yemen. L'Unione Europea ha dichiarato nel 2016 che avrebbero approfondito la questione della vendita di armi dai Balcani e della Serbia ai paesi della penisola arabica che ne fanno un uso improprio. Non ne ha seguito chiaramente nulla. Sarebbe stato infatti molto ipocrita andando a paragonare la quantità di armi vendute dalla Serbia e dagli Stati UE ai paesi arabi. Quelle serbe sono solo una goccia rispetto a quelle che mandiamo noi. E di nuovo la beretta in testa a vendere armi. Ricordo che noi, ahimè, abbiamo il primato di produttori di mine antiuomo al mondo, una delle armi più subdole e schifose che siano mai state create. Quindi questo era il quadro delle armi, tremendo, della vendita di armi in Serbia, veramente tremendo, legato poi anche a questa politicizzazione dell'esercito. Il quadro è veramente, veramente cupo. Quindi ho voglia di mandare un bel pezzo duro per esorcizzare questa notizia, e voglio mandarvi Lights Out dei Royal Blood, quindi incazziamoci con questo bel rock duro. You don't matter. E rieccoci qua. Siamo ahimè in conclusione della puntata di oggi. E quindi, come di consueto, il pezzo balcanico della settimana, anzi della dos settimanas. E finalmente sono molto contento. C'avevo troppa voglia da tempo di parlare di appunto Ai Dusi, della famosissima canzone Dragostea Dintei. Allora, complice l'apparizione a Sanremo nel 2004, la sua canzone Dragostea Dintei è divenuta probabilmente la più grande hit rumena in Italia. In realtà conquista tutto il mondo, arrivando a vendere in poco tempo oltre 1 milione di copie. Ai Dusi, nome che rimanda agli antichi fuorilegge che lottarono per la liberazione dell'occupazione ottomana, al secolo è Paola Mitrace, nasce a Bucarest nel 1977 da padre ingegnere e madre pediatra. È ancora oggi fra i rappresentanti più significativi della cultura musicale dance della Romania. Vince il titolo di Miss Bucarest, si dà alla musica e alla recitazione. Dalla sua alla capacità di esprimersi in 3 lingue diverse. A 20 anni va a vivere a Giovinazzo, in Puglia, ed è qui che il suo nome inizia a circolare in ambito discografico, portandola alla collaborazione con Bruno Santori, compositore italiano e direttore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Attualmente risiede in Puglia e all'attività di cantante affianca quella di mediatrice culturale. Ha fondato l'associazione Dacia Nicolaiana, offrendo aiuto ai connazionali che vivono nel nostro territorio, ed è consigliera del sindaco di Bari. Pensa te che storia Ai Dusi. E quindi andiamoci a sentire come conclusione appunto Dragostea Dintei. A tutto volume! Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. meravigliosa, meravigliosa come sempre. E questo era il pezzo balcanico della settimana, appunto, che prendeva il paese della Romania, visto che abbiamo parlato anche di quel paese. Ci sentiamo allora fra due giovedì, sempre Radio Wombat, sempre a quest'ora. E niente, vi ricordo che un giovedì sì, un giovedì no, invece c'è In Punta di Pedali. E se volete ascoltare invece un bel connubio fra L'Urlo dei Balcani e In Punta di Pedali, la scorsa puntata, che si intitola appunto L'Urlo dei Pedali, ha visto tutti e due, sia Bricobaldo che il Buon Tuco, parlare insieme un po' sia di Balcani che non, e soprattutto delle biciclette. Vi ringrazio per essere rimasti con me e con questo splendido pomeriggio. Ci sentiamo presto e mi raccomando, sempre soltanto Yuri! E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat!